Ciao Gigi, sono Alessandra. È da poco che ascolto il tuo cammino, grazie al mio papi. È fantastico. Voglio dedicare ginnastica mentale al mio ragazzo. Ti amo, Giampi. Ginnastica mentale. Condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. La misura dell'amore è amare senza misura. Sant'Agostino di Ippona. Ti amo. Sono perduto. È tutto quello che so. Spettacolo, fratello. Bella Gigi. Il cammino di Gigi D'Agostino. Reparto pelle d'oca. Gigi D'Agostino, una grande famiglia danzante. Venerdì 22 dicembre 2006, Gigi D'Agostino suona a Torino, discoteca Patio Club. Ci vediamo lì. Sono due cose distinte. Non tutto ciò che si ama si desidera, né tutto ciò che si desidera si ama. Miguel de Cervantes. Il cammino di Gigi D'Agostino. La radio a colore. Hola Gigi, Per me è importante rivivere quegli attimi di fantasia, in quella dimensione dove la lontananza sparisce. Grazie Gigi, solo tu riesci a creare quei luoghi. Per te e me, chiudi gli occhi, sono lì, Lisa. Sai cosa c'è dentro di te? Un sogno che finalmente, dopo 2 mesi, torno a casa e potrò rivedere l'amore della mia vita. Fammi ascoltare L'amour toujours. Da Laura ad Alessandro. Auguri alla persona che ha saputo sconvolgere la mia vita nel modo più bello possibile. Alla persona che sento sempre a fianco, anche quando ci dividono 1000 chilometri. Alla persona che suona dentro di me in loop. Alla persona che amo. Buon compleanno, Ale. I still believe in your eyes. There is no choice, I belong to your life. Because I live to love you someday. You'll be my baby and we'll fly away. And I'll fly with you. Vorrei tanto dedicare l'amour toujours alla mia dolce sorellina Maria e al mio amore Loredana. Quirino da Frosinone. Da Acqui Terme. Vorrei usare queste poche parole per il mio fratellino. È la persona più speciale su questa terra e vorrei dedicargli la sua canzone preferita. L'amour toujours. Didi, sei tutta la mia vita. Ti voglio bene. La tua sorellina Silvia. Fermiamo quel minimo, riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Sali in sella, è suonata la campanella. Comportamento del movimento. nipota. Quiero ballar. Musica mental. Quiero ballar. Musica mental. Quiero ballar. Musica mental. Quiero ballar. Musica mental. Non intendo otra cosa. La mia mente è musicosa. Non intendo otra cosa. La mia mente è musicosa. No, così. Stefano, lento, violento. Martedì sera, 26 dicembre 2006, dalle ore 22, Gigi D'Agostino suona a Cigliano, vicino a Torino. Discoteca 2. Vieni tu e le amiche tue. Vieni a Cigliano, prendiamoci per mano. Infoline 392-822-5259. La musica è il genere di arte perfetta. La musica non può mai svelare il suo segreto più nascosto. Oscar Wilde. Il cammino di Gigi D'Agostino. Benvenuti nel mondo che non c'è. Signori, Gigi D'Agostino. Alla faccia di chi ci vuole male e non distingue lo zucchero dal sale.

Sperimentala dalla natura, sognando di fronte ad essa, e preoccupatevi più della creazione che del risultato. Paul Gauguin. Sono Amy. Vorrei dedicare Only You Can Make Me Stay a lei, che ha reso perfetto il mio 2006. A lei che ha dato un senso agli obiettivi del mio 2007. A lei che è presente nei miei pensieri e nei sogni più belli. Francesca, grazie per la semplice ma immensa felicità che mi dai con il solo pensare a quello che è stato, a quello che è e al sogno che nella mia strada potresti esserci ancora tu. Sulla frequenza della benevolenza. M2O. 20 dicembre, di purezza si veste, è nato Miasi. Un haiku musicale per festeggiare il comparone Ale. Non smettere mai di volare. Buon compleanno. Tony. Vorremmo dedicare Fly ad Ale Miasi, Tony e Monica per il loro compleanno. Vi vogliamo bene, le sorelline emotive. Viaggio incontaminato, un sentiero innamorato, la semplicità di un bambino, il cammino di Gigi D'Agostino. Sono Francesco da Valle di Cadore. Volevo dedicare Star alla mia stellina Laura, che oggi compie 16 anni. Auguri, amore. Cugino Sandro, e dirgli che per me è un elisir di divertimento. Giusy da Mottola, Taranto. Gigi, scegli una tua canzone per augurare buon compleanno alla mia sorellona Momius e per farle sapere che le voglio un gran bene. Buon Natale a tutti! We'll be right back. si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Mittente, mamma, destinatario, Mommius. Lo so che è tanto che non te lo dico. Ti voglio bene. Buon compleanno, Monica. Ho fatto un sogno di quelli strani. Guardavo un cielo pieno di mani. Mani che cercano di costruire un mondo nuovo che possa unire. Mani che pensano, che vogliono dire. Che non sognavo nel mio dormire, ma che era un sogno di quelli strani che mi donava il mio domani. Per Alessandro. Ricordo il nostro primo incontro. Io, un angioletto riccio perennemente pensieroso. Tu, un frugoletto biondo che con la sua manina curiosa cercava di scacciare quei pensieri. Sono trascorsi 23 anni da allora e quella dolcissima mano la sento ancora nella mia ed ha il calore del sole. Buon compleanno, fratellone. Sei la mia vita. Bye. Ci sentiamo domani. Grazie.